Le mamme deluse, faccia contuse, ore rinchiuse. Pretende scusa la donna esclusa, prima la uso e poi fa le fusa. Nulla vedi la vita com'è, il senso di colpa mi spolpa. Attendono scusa, io so chi ricorda, e mi costa stavolta altre. Non riesco a trovare risorsa, ma non tutto si mostra. Mi sento aggressivo e nocivo, è lo stato in cui spesso decido. Uccido, matte, vino, vino e dov'è? Stress, suicidio, che giro da solo, che giro con loro. Ora giro il perdono, che ti chiedo indone, lo faccio. Ti ringrazio per il gelo che crei tra noi, ma detto tra noi ti cercherai un abbraccio. Fai bene al mio cuore di ghiaccio, tienimi in pugno a posto. Fammi più fresco da giugno ad agosto. Cambio clima così nascosto, non tutto ti mostro, non tutto è nostro. Ho quello che vuoi, per quel tanto che ti conosco, ma so che mi cerchi poi, quello che proprio non posso. Non tutto è nostro, c'è un percorso e c'è un trascorso. E se nel conto, dalla mia sto freddo ci manda lo scontro prima che l'ipotermia.